Due volti rosei si volsero alla luce della piccola torcia. Chi è? Chiese Ned Lambert. È mica Crotty? Ringabella e Crosshaven, rispose una voce, brancolando in cerca di un posto sicuro per posarci il piede. Olà, Jack, sei tu? Disse Ned Lambert, alzando il suo listello flessibile a mo' di saluto, sotto le arcate tremolanti nella luce. Avanti, attento dove metti i piedi! L'asticciola, accesa nella mano alzata dell'ecclesiastico, si consumò in una lunga, morbida fiamma e fu lasciata cadere. Ai loro piedi morì la sua scintilla rossa e un'aria ammuffita si richiuse su di loro. «Com'è interessante!» disse nell'oscurità un accento raffinato. «Sì, signore!» disse Ned Lambert cordialmente. «Ci troviamo ora nella storica stanza del consiglio dell'abbazia di Santa Maria, dove Thomas il vellutato piaggiatore si proclamò ribelle nel 1534. È il luogo più storico che ci sia in tutta Dublino. O'Madden Burke ci scriverà sopra qualcosa uno di questi giorni. La vecchia Banca d'Irlanda era dall'altra parte della strada fino al tempo dell'Unione. E anche il primo tempio degli ebrei era qua, prima che si costruissero la sinagoga in Adelaide Road. Non c'eri mai stato prima, vero Jack? No, Ned. Scese giù per Dame Walk a cavallo, disse l'accento raffinato. Se la memoria non mi tradisce, la magione dei Kildare era in Thomas Court. Giusto, disse Ned Lambert. Giustissimo, signore. Se voleste essere così gentile, allora, disse l'ecclesiastico, da consentirmi la prossima volta di... Certo, disse Ned Lambert. Porti la macchina fotografica quando vuole. Farò levare quei sacchi dalle finestre. La può riprendere di qui, oppure di qui. Nella quieta, debole luce, si muoveva in giro battendo col suo listello i sacchi di semi ammonticchiati e le posizioni più opportune sul pavimento. Da un lungo viso, una barba e uno sguardo incombevano su una scacchiera. Le sono profondamente obbligato, Mr. Lambert, disse l'ecclesiastico. Non le ruberò più oltre il suo tempo prezioso. Ma le pare, signore, disse Ned Lambert, capiti quando più le fa piacere. La prossima settimana, per esempio. Ci vede? Sì, buonasera, Mr. Lambert, felicissimo di aver fatto la sua conoscenza. Il piacere è tutto mio, signore, rispose Ned Lambert. Seguì l'ospite fino all'uscita e poi fece frullar via il listello in mezzo alle colonne. Insieme con J.J. O'Molloy entrò lentamente nell'abbazia di Maria, dove alcuni carrettieri caricavano su lunghi carri sacchi di farina di carrube e di noci di palma. O'Connor, Wexford. Si fermò per leggere il biglietto che aveva in mano. Reverendo Hugh C. Love, Rat Coffee, indirizzo attuale, San Michele Sallins. Simpatico giovane. Sta scrivendo un libro sui Fitzgerald, mi ha detto. È ferratissimo in storia, ma sul serio. Con lenta cura la ragazza si staccò un ramoscello dalla sottana leggera. Credevo che stesse facendo un'altra congiura delle polveri, disse J.J. O'Molloy. Ned Lambert fece schioccare le dita in aria. Dio! Esclamò. Mi sono scordato di raccontargli quella del conte di Kildare dopo che ebbe dato fuoco alla cattedrale di Cashel. La sai? Mi dispiace un frego d'averlo fatto, dice, ma giuro a Dio che credevo ci fosse dentro l'arcivescovo. Forse non gli sarebbe piaciuta, però, no? Dio mio, comunque gliela voglio dire. Fu il gran conte, il Fitzgerald Mor. Tutti teste calde, i Geraldini. I cavalli davanti ai quali passava trasalirono nervosamente sotto la bardatura allentata. Assestò una manata su una natica pezzata che gli vibrava accanto e urlò: Oh, piccolo! Si voltò verso J.J. O'Molloy e chiese: Allora, Jack, che c'è? Qualche guaio? Aspetta un po', non ti muovere. Con la bocca spalancata e la testa rovesciata all'indietro, rimase immobile e dopo un istante sternutì forte. Ecci! Disse. Va all'inferno. La polvere di quei sacchi, disse cortesemente J.J. O'Molloy. No, ansimò Ned Lambert. Ho preso un raffreddore. Avanti, Al diavolo, avanti ieri sera c'era un'ira di Dio di spifferi. Teneva il fazzoletto pronto per il prossimo. Ero glas de vent stamani, poveretto, come si chiama? Ecci! Mamma mia! Tom Rochford prese il primo disco della pila che teneva stretta contro il panciotto rossiccio. Vedete? Disse. Mettiamo che sia il sesto numero. Qui, vedete? Numero in corso. Lo infilò nella fessura di sinistra a scopo dimostrativo. Il disco scivolò giù per la scanalatura, vibrò un poco, si fermò facendo loro l'occhiolino. Sei. Avvocati di vecchio stampo, alteri, peroranti, videro passare dall'ufficio delle imposte alla corte d'assise Richie Goulding con la sua borsa di Goulding, Collis e Ward e sentirono frusciare dalla sezione dell'ammiragliato della procura del regno fino alla corte d'appello una signora anziana che sorrideva, incredula, con la sua dentiera e una sottana di seta nera di vaste dimensioni. Visto? Disse. Vedete bene che l'ultimo che ho messo è venuto a finire qui. Numeri già eseguiti. È la spinta, la leva, vedete? Fece veder loro la colonna dei dischi che si alzava sulla destra. Idea geniale, disse Nosy Flynn stronfiando. Così uno che arriva tardi può vedere qual è il numero in corso e quali sono già passati. Visto? Disse Tom Rochford. Infilò un disco per conto suo e lo osservò scivolare, vibrare, far l'occhiolino, fermarsi. Quattro. Numero in corso. Lo vedrò tra poco all'Ormond, disse Lenehan, e tasterò il terreno. Un favore ne merita un altro. Lo faccia, disse Tom Rochford, gli dica che sono boilante d'impazienza. Buonasera, disse McCoy bruscamente. Quando cominciate voi due? Nosey Flynn si chinò sulla leva, stronfiandoci sopra. Ma qui come funziona, Tommy? Chiese. Buone cose, disse Lenehan. Arrivederci. Seguì McCoy attraverso la minuscola piazza di Crampton Court. È un eroe, disse semplicemente. Lo so. Disse McCoy. Lei vuol dire quella storia della fogna? Fogna? Disse Lenia. Era un tombino. Passarono davanti al teatro di varietà di Don Laurie, dove Mary Kendall, incantevole soubrette, fece piovere su di loro da un cartellone un sorriso caricato. Scendendo giù per il marciapiede di Sycamore Street, accanto al teatro di varietà Empire, Lenia andette a intendere a McCoy come stava la faccenda. Uno di quei tombini maledettamente stretti, come tubi del gas, e quel povero diavolo ci stava infilato dentro, mezzo soffocato dal gas delle fogne. E Tom Rochford, giù, senza pensarci due volte, panciotto da allibratore e tutto, con una corda intorno al corpo. E porca miseria, ce la fece ad arrotolare la corda intorno a quel poveraccio, e tutti e due furono tratti in salvo. Un'azione eroica. Disse. Al Dolphin si fermarono per lasciar passare l'ambulanza che galoppò via verso Jervis Street. Da questa parte, disse dirigendosi a destra, voglio fare una capatina da Lynham per vedere come è quotato in partenza Shaftesbury. Che ora fa il suo orologio d'oro in catene? McCoy scrutò nel tetro ufficio di Marcus Tertius Moses, poi sbirciò l'orologio di O'Neill. Le tre passate, dice. Chi la monta? Oh, Madden, disse Lenehan, è una puledrina in gamba, badi. Mentre aspettava a Temple Bar, McCoy spinse delicatamente giù dal marciapiede nella cunetta una buccia di banana con la punta della scarpa. Porco mondo, qualcuno potrebbe anche fare una brutta caduta passando di qua un po' brillo, di notte. I cancelli del viale si spalancarono per lasciare uscire il corteo del viceré. Alla pari, disse Lenian tornando indietro. Sono andato a sbattere in Bentham Lions che stava per puntare su un fottuto cavallo che gli ha consigliato qualcuno e non vale quattro soldi. Per di qua. Risalirono gli scalini e passarono sotto l'arco dei mercanti. Una sagoma dalla schiena scura scrutava libri sul banchetto di un rivenditore. Eccolo là, disse Lenian. Chissà cosa compra. Disse McCoy guardando all'indietro. Leopoldo, ovvero Bloom, blu è la patina sul fior di Segala, disse Lenehan. Va pazzo per le liquidazioni, disse McCoy. Un giorno ero insieme a lui quando comprò un libro da un vecchio in Leafy Street per 2 scellini. C'erano delle belle tavole che valevano almeno il doppio, le stelle e la luna e comete con la coda lunga. Trattava d'astronomia. Lenehan rise. Gliene voglio raccontare una buona davvero sulle code di cometa. Venga un po' in qua, al sole. Traversarono in direzione del ponte di ferro e seguirono la riva Wellington dalla parte del parapetto. Il signorino Patrick Aloysius Dignam usciva da Mangan, che prima era Fehrenbach, con una libbra e mezzo di cotolette di maiale. C'era stato un lungo festino al riformatorio di Glencry, disse vivamente Lenehan. Il banchetto annuale, sa, roba da colletto duro. C'era anche il sindaco, era Val Dillon allora, e Sir Charles Cameron, e Dan Dawson fece un discorso e ci fu musica. Cantarono Bartell d'Arcy e Benjamin Dollard. Lo so, interruppe McCoy, ci cantò la mia signora tempo fa. Davvero? Disse Lenia. Un biglietto, camere non ammobiliate, riapparve sul telaio della finestra del numero 7 di Eccles Street. Interruppe un momento il racconto e scoppiò in una risata asmatica. Mi stia un po' a sentire, disse. Delante di Camden Street aveva fornito il rinfresco e il sottoscritto aveva provveduto alla beverata. C'erano anche Blum e signora. Ci siamo riempiti fino agli occhi. Porto e sherry e curaçao, a cui rendemmo ampia giustizia. Ci si dette dentro tutto spiano e dopo i liquidi solidi. Carne fredda più non posso e tartine. Lo so, disse McCoy. L'anno che c'era la mia signora. Lenehan lo prese calorosamente a braccetto. Mi stia un po' a sentire, disse. Si fece anche un pranzetto a mezzanotte, dopo tutta quella bisboccia, e quando uscimmo erano le ore piccole del mattino dopo la Valdoria. Ritorno in una smagliante notte d'inverno sulla montagna a letto di piume. Blum e Chris Cullinan erano da una parte della vettura e io con la moglie dall'altra. Si cominciò a cantare canzoncine e duetti. Mira all'alba il primo raggio. Era ben imbottita di Port d'Elant sotto la pancera. A ogni scossone di quella fottuta vettura mi veniva a sbattere addosso. Delizia d'inferno. Un bel paio, Dio la benedica. Grosse così. Allontanò di un cubito le mani a coppetta accigliato. Le rimboccavo sotto la coperta e seguitavo ad aggiustarle il boa. Capite cosa voglio dire? Le sue mani modellavano in aria ampie curve, strinse le palpebre per il piacere, tutto rattrappito, ed emise un dolce cinguettio dalle labbra. Quanto al piccolino, era sull'attenti comunque, disse con un sospiro. È una puledra gagliarda, non c'è da sbagliarsi. Blum indicava a Chris Cullinan e al fiaccheraio tutte le stelle e le comete del cielo, l'Orsa Maggiore e Ercole e il Dragone e tutto il mazzo delle altre. Ma io per Dio ero sperso, per così dire, nella Via Lattea. Le conosco tutte per bacco. Da ultimo lei ne scovò una piccina, picciò a miglia e miglia di distanza. E quella che stella è, Poldi? Dice. Per Dio, mise Blum con le spalle al muro. Quella là? Dice Chris Cullinan. Ma è quel che si dice una punta di spillo? Per Dio, non era andato molto lontano dal segno. Lenehan si fermò e si appoggiò al parapetto del fiume, ansimando sommesse risate. Mi sento debole, ansimò. Il volto bianco di McCoy sorrise a tratti all'intorno e si ricompose. Lenehan riprese a camminare, sollevò il berretto da spiaggia e si grattò rapidamente la nuca. Guardò con la coda dell'occhio McCoy in pieno sole. È un uomo colto, che sa fare di tutto un po', quel Blum, disse seriamente. Non è il primo fesso arrivato, sa. Ha qualcosa dell'artista in sé, il vecchio Blum.